questa manifestazione d'eccesso della cappella che sta girando per i Galli con oggi, 26 maggio. Si deve dare a 10 anni, sempre tutto da fare la cappella. Sì, quindi quello che abbiamo bisogno di fare oggi è fare una grande manifestazione e quindi girare la cappella e spettare con la nostra allegria, con la nostra voglia di fare pasta per sfidare questo momento dell'attacco fascista o malavitoso che pensiamo. Ricordiamo che il 15 maggio è stato bruciato il circuito della cappella della prima regina Barbara Pettorato Osmart, la struttura principale è stata completamente bruciata. Insomma, la situazione è che abbiamo davanti a una guerra del nord, chiaramente. E comunque, insomma, la ricostruiremo più grande di quello che prima, e non solo la mia mano, ti prende con un pochino e la consistenza di questo coltello. E l'albero che è stato con una fotografia, che era davvero tanti striscioni, chiaramente, apre il coltello, lo striscione quello storico del cartello, quello che vediamo, che abbiamo visto in tante parti d'Italia, a Roma, come nella Valle di Susa, in tanti luoghi veramente no. Qui il cartello a Reggio, nel quartiere Gallico, sta sfilando per raccontare quello che è, per raccontare soprattutto la gioia di vivere e di esistere in questa terra. Poi ci sono tante altre testimonianze, tante altre stazioni, di legge, di fare educazione, di gestire, di trovare di associazioni. Questo testimone come tutto quello che è il cartello, quello che riesce a creare intorno a sé, o come un insieme di tante realtà di diverse e di diversità, naturalmente. Thank you.